232. Polenta di farina gialla con le salsicce. Fate una polenta piuttosto tenera, di farina di gran turco, distendetela sulla spianatoia alla grossezza di un dito e tagliatela a mandorle. Ponete in un tegamino diverse salsicce intere con un gocciolo d'acqua e quando saranno cotte, spellatele, sbriciolatele ed aggiungete sugo e conserva di pomodoro. Collocate la polenta in una teglia o in un vassoio che regga il fuoco, conditela a suoli col parmigiano, queste salsicce e qualche pezzetto di burro sparso qua e là. Poi mettetela fra due fuochi e quando sarà ben calda servitela, specialmente per il primo piatto di una colazione alla forchetta. La detta polenta si può fare anche dura per tagliarla a fette.